Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel 1970 David Mancuso, un DJ di New York, fonda un club riservato ai soli soci e lo chiama The Loft. E qui inizia un fenomeno musicale che interesserà la seconda metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80 e viene chiamato generalmente disco music. Barry White, i Bee Gees, gli Chic, Donna Summer, Gloria Gaynor, Moroder a, come dire, sovraintendere, sono gli artisti che hanno sfornato successi musicali che ancora oggi vengono ballati nelle discoteche di tutto il mondo, oppure vengono elaborati, oppure vengono campionati o quantomeno imitati. Oggi raccontiamo la storia del re, o se preferite della regina, del disco music. Una persona che ha fatto della sua ambiguità sessuale un punto di forza e della sua incredibile voce in falsetto un marchio di fabbrica molto difficile da imitare. È un uomo che ha ottenuto tutto quello che ha voluto, ma che ha perso tutto tragicamente. Questa è la storia di Sylvester. Eh sì, per parlare di disco music bisogna fondare le radici nei canti gospel che vengono cantati nelle chiese americane, perché è proprio da qui che parte il viaggio musicale di Sylvester James Jr., nato a Los Angeles il 6 settembre del 1947. Lui è il primo di tre figli, fa parte di una normale famiglia della borghesia afroamericana, se non che il padre, Sylvester Senior, a un certo punto, come buona norma di quasi tutti i protagonisti di questa trasmissione, a un certo punto abbandona moglie e figli. Il piccolo Sylvester, che viene soprannominato Dooney, si trova a essere praticamente il capofamiglia, anche se è ancora solo un bambino. La madre ha un nuovo compagno, ha altri tre figli, però è una madre amorevole, attenta all'educazione dei bambini. Il suo principale insegnamento è quello di cercare di fare ciò che si vuole nella vita, di inseguire i propri sogni. Però, come tutta la borghesia nera afroamericana, il punto di ritrovo importante è la chiesa, e lui è affascinato dalla musica gospel, ha una voce molto particolare, acuta, riesce a raggiungere tonalità femminili. Questo lo pone in primo piano nei canti del coro. Vivevamo in chiesa. Passavamo più tempo lì che a casa nostra. Ricordo che per arrivare al microfono salivo su una scatola di bottiglie di latte. Ma quando iniziavo a cantare, tutti rimanevano in silenzio ad ascoltarmi. Però quel bambino così bravo a cantare di femminile non ha solo la tonalità della voce, perché fin da quando è bambino Sylvester assume atteggiamenti che denotano, diciamo, la sua diversità, uno stile di vita che inevitabilmente segnerà tutta la sua esistenza. Ama indossare i vestiti della madre, si trucca, insomma sono gli amici, gli altri ragazzi che si accorgono subito che Sylvester ha delle movenze femminili, sembra una donna imprigionata in un corpo maschile, e quando i giudizi della gente sono troppo difficili da combattere si scappa. All'età di 15 anni Sylvester va a vivere con la nonna Giulia, che ha una mentalità molto più aperta, che ha molte amicizie nel mondo omosessuale. Così Sylvester non ha più bisogno di giustificarsi, inizia a frequentare locali gay, conosce persone come lui, insomma trova una dimensione di vita accettabile proprio perché lui stesso viene accettato. E nel 62, appena quindicenne, crea con alcuni amici un gruppo vocale, lo chiama The Disquotes, in sostanza un gruppo di ragazzini che si travestono tutti, indossano parrucche col caschetto per assomigliare a Diana Ross, diciamo delle drag queen ante litteram. In questo periodo alcuni componenti del gruppo prendono una strada particolare, insomma iniziano a prostituirsi. Sylvester invece riesce a guadagnarsi da vivere cambiando continuamente lavoro, viene assunto da McDonald's, poi viene licenziato perché non vuole indossare la rete per i capelli, sì, perché ha dei capelli lunghi, gonfi, vaporosi, capelli che nel corso della sua carriera saranno sempre al centro del suo look. siamo a Los Angeles negli anni 60, travestirsi, truccarsi come una donna è vietato dalla legge. E gli anni 70 sono alle porte, si comincia a respirare un'aria diversa, un'aria di novità, di libertà. Nascono i primi movimenti hippies, la città che più di tutte accoglie queste persone che vogliono, diciamo, esprimere una emancipazione. Insomma, la città più tollerante è sicuramente, proverbialmente, San Francisco. È qui che Sylvester decide di trasferirsi all'età di 23 anni. Quando mi trasferì a San Francisco, il primo impatto fu terribile. Ero terrorizzato. Tutto era così diverso. Ma con il passare del tempo ho capito che quello era il posto giusto dove vivere. Il falco e il gabbiano. Dunque, San Francisco è la città che negli Stati Uniti accoglie senza pregiudizi, senza remore, chiunque voglia esprimere il proprio essere o le proprie idee. Non a caso all'inizio degli anni 60 è stato il punto di ritrovo della Beat Generation di Kerouac, e poi arriva il momento degli hippies che si ritrovano nel Haight-Ashbury District, che è un quartiere della città che peraltro ancora oggi conserva di quel periodo le luci psichedeliche delle insegne che ci sono ancora. Nel 70 Sylvester entra a far parte del gruppo teatrale The Cookettes, che è molto più in realtà di un gruppo teatrale, è una specie di comune in cui tutti vivono all'insegna della assoluta libertà sessuale. E per un lungo periodo a San Francisco questa comune è stata un punto di ritrovo di artisti come Andy Warhol, come anche John Lennon, che era molto incuriosito da quel mondo. Insomma, lo spirito hippies si incarna perfettamente in quel gruppo. Sylvester entra a far parte di questa congrega vestendosi da donna con i suoi capelli ricci, vaporosi, e fa la cosa che gli riesce più naturale, cioè cantare. E questa è una voce che non passa inosservata. Così nel 72 c'è l'occasione per incidere un brano insieme a un gruppo che si chiama The Hot Rod. Southern Man è il primo singolo della carriera di Sylvester. Come spesso accade, non capita nulla di buono, l'album non viene prodotto. Sylvester però rimane nel circuito discografico facendo da corista a un gruppo femminile che il successo invece lo ha già raggiunto, le mitiche Pointer Sisters. Ma ci vuole un colpo d'ala per raggiungere il successo personale. Sylvester deve presentarsi come un artista che prende la scena, però è capace di ironizzare sul suo aspetto, sulla sua ambiguità. Così comincia a fare delle audizioni per trovare due ragazze da affiancare al suo personaggio, due coriste che abbiano delle caratteristiche tali da creare una specie di trio vocale. E Sylvester non sceglie una coppia di ragazze bionde di cui la California sta straripando, sceglie due cantanti di colore, Martha Wash e Isora Rose, entrambe molto sovrappeso, proprio le due ciccione nere tipiche che vediamo nei film cantare in chiesa. Crea il gruppo Sylvester and Two Tons of Fun, due tonnellate di simpatia. A questo punto arriva qualcuno che è molto importante, arriva la Motown. Così, dopo due tentativi infruttuosi, nel 77 esce il terzo album di Sylvester. Si intitola come lui, Sylvester, contiene 8 brani, tra cui Down Down Down, che arriva al 18° posto delle classifiche dance. Un buon inizio, però per sfondare bisogna centrare una hit importante. E sono anni in cui la concorrenza è molto agguerrita, sono gli anni d'oro della disco music. Nel 77 per esempio esce il film La febbre del sabato sera, sono in molti ad ambire al trono, ma non c'è nessuno che si presenti come lui. Una certa bellezza unita però a un aspetto ambiguo, una voce inconfondibile, sono ingredienti che non possono far altro che trasformarsi prima o poi in un mix di sicuro successo. E poi c'è la sua simpatia, perché sul palco lui si muove con naturalezza, perché è, come dire, fa tesoro della lunga esperienza maturata negli spettacoli di drag queen. Lui un tempo si travestiva, non so, da Josephine Baker, si immedesimava a tal punto da convincersi di essere veramente la cantante franco-americana. I really believe for the second time Ho creduto veramente per un certo periodo di tempo di essere Josephine Baker. Ne ero convinto. Andavo in giro con una parrucca, uno stupido costume, e aspettavo che gli uomini aprissero le porte per me o accendessero le mie sigarette. Non scendevo mai da una macchina se non veniva qualcuno ad aprire la portiera per me. Era una fantasia che vivevo nella realtà. Silvestre è una persona fragile, come spesso accade a quelli che nascondono con l'esuberanza e con la simpatia una insicurezza che magari hanno da tempo. Lui ce l'aveva fin da bambino, quando veniva preso in giro da tutti. Non vogliamo essere ipocriti e nasconderci dietro ai soliti giri di parole con i sinonimi politicamente corretti. Negli Stati Uniti oggi come allora è già difficile essere chiamato negro, figuriamoci poi se ti danno anche del finocchio. Comunque l'accostamento di Sylvester, che è un uomo dal fisico imponente, atletico, con le due ragazze sovrappeso, crea un contrasto che sul palco funziona molto bene. Peraltro sono tutti e tre ottimi cantanti, insomma i risultati prima o poi devono arrivare. Nel 78 esce il primo vero successo di Sylvester, che raggiunge la vetta della classifica e lo proietta tra i grandi nomi della disco music, Dance Disco Hit. E così Sylvester finalmente trova il suo groove. Il successo lo scaraventa in tutti i principali show televisivi americani. Con la canzone Dance vince il disco d'oro, vive anni di grande popolarità e riesce a esprimere al meglio la sua produzione artistica. In studio lavora con Patrick Cowley, che assieme a Moroder è uno dei pionieri della disco music elettronica. I risultati si vedono, perché i suoni di Cowley, che abbonda di sintetizzatori, diventano un marchio di fabbrica inconfondibile, e nel successivo singolo di Sylvester tutto esplode. Arriva il suo brano più famoso, quello che gli permette di entrare nella storia della musica. Ovviamente stiamo parlando di You Make Me Feel. Il falco e il gabbiano. E questa è una puntata tutta da ballare. Non vergognatevi se avete ballato la prima mezz'ora, probabilmente lo farete ancora adesso, almeno con il pensiero, con qualche impercettibile gesto del vostro corpo, come il protagonista di In e Out. Stiamo raccontando la storia di Sylvester James, il cantante di colore che nel 78 conquista le vette della musica dance con due brani che diventano dei classici ballati ancora oggi nelle discoteche di tutto il mondo, con Dance Disco Hit, ma soprattutto con You Make Me Feel Mightily Real. Sylvester si impone come uno degli artisti più importanti della storia della disco music. Sylvester è un artista particolare, lo abbiamo già detto, è uno che non ha mai nascosto la sua ambiguità sessuale, si traveste da donna, è partito facendo spettacoli vestito da drag queen, però è anche molto simpatico, autoironico, e il pubblico americano, che normalmente è morigerato e bigotto, chiude un occhio di fronte ai suoi evidenti atteggiamenti omosessuali, quasi come se accettasse Sylvester come un attore di una parte, oppure addirittura come un clown. È un periodo bellissimo quello che sto vivendo. Viaggio molto, in varie parti del mondo, e ovunque vada c'è qualcuno che mi riconosce, che mi chiede autografi, che ascolta la mia musica. Nel 79 arriva uno dei momenti più alti della sua carriera, un concerto di celebrazione al San Francisco Opera House. Sylvester è molto orgoglioso perché è il definitivo riconoscimento della sua carriera artistica. Tutto è accaduto molto velocemente, prima ha segnato un po' il passo, adesso lui ha 32 anni, però lui che ha inseguito la perfezione nel look, nella musica, negli spettacoli dal vivo, finalmente è una persona felice. Il concerto viene pubblicato come live in un doppio album dal titolo Living Proof. Tra i brani che vengono suonati durante il concerto c'è anche You Are My Friend, un pezzo di Patti LaBelle, quella di Lady Marmalade. E con questo doppio album Sylvester diventa la vera grande icona del mondo gay. Lui è molto attento alla sua immagine, forte del successo ottenuto, comincia a pensare di potersi permettere qualsiasi cosa. Esaspera il look da grande diva, posa per servizi fotografici, sceglie con accuratezza trucco e vestiti, si mostra al mondo sempre più come una donna. Se fino a quel momento l'America l'aveva tollerata, a un certo punto i grandi produttori discografici si spaventano, e soprattutto si spaventano i responsabili della programmazione delle radio. Insomma, comincia a trovare delle porte chiuse, molti gli voltano le spalle. I due dischi successivi, quelli dell'80 e dell'81, sono un fiasco. Quando si cade verso il basso, forse il modo migliore per risollevarsi è tornare alle proprie origini. Così Sylvester torna a lavorare con Patrick Cowley, il produttore dei suoi primi grandi successi. Il 1982 è l'anno del riscatto, perché esce un nuovo album che contiene un brano che scala di nuovo le classifiche di tutto il mondo. Il titolo è una nuova provocazione: Do You Wanna Funk? E torna il successo, torna la grande popolarità. Sylvester può ricominciare a comportarsi come una star di Hollywood. Quando si trova a fare shopping per le strade di Los Angeles, di New York, la gente lo ferma. È un vero e proprio divo, o una vera diva, come forse piacerebbe a lui sentirsi dire. E lui non si fa mancare nulla, gioielli, auto, insomma, vive come una superstar. Here I am, Black Queen. Eccomi qui, una regina nera con una pelliccia da $25,000, 50, forse $60,000 di diamanti, una limousine che aspetta fuori dal mio lussuoso appartamento e mi porta ovunque io voglia andare. Però le cose cambiano. Patrick Cowley, col quale Sylvester in realtà non ha solo una collaborazione artistica, ha proprio una vera e propria liaison, si ammala. L'AIDS comincia a entrare nella vita del mondo, soprattutto dell'America, soprattutto di quell'America, e quindi nella vita di Sylvester e chi gli sta vicino. Nell'82 Cowley muore. E l'allegria che aveva dominato San Francisco comincia a venire sostituita dalla paura. Ogni giorno c'è una persona che si ammala, uno che muore. Insomma, Sylvester decide di utilizzare la sua fama e quello che lui rappresenta per la comunità gay per iniziare raccolte di fondi, per aiutare chi si è ammalato, per promuovere la prevenzione. Forse un passo che andava fatto qualche anno prima, perché lui nell'82 instaura una stabile relazione con Rick Cramner, che è un architetto di San Francisco. Ma anche in questo caso l'AIDS colpisce nel profondo, perché Cramner nell'85 si ammala e viene contagiato anche lui, anche Sylvester. Però la sua carriera continua con brani che entrano sempre nelle classifiche disco americane. Nell'86 è ancora una numero uno, Someone Like You. Ma come spesso purtroppo accade, dietro al glamour, dietro alle limousine, dietro ai lussi, c'è una tragedia in agguato. Nell'87 il compagno di Sylvester muore per le complicazioni polmonari causate dall'AIDS. Pochi mesi dopo anche Sylvester comincia a manifestare i sintomi gravi della malattia. Per lui è un colpo durissimo, perché per tutta la comunità gay americana lui è un simbolo. Sa perfettamente quanto difficile sia per tutti accettare la notizia della sua malattia. Mi rendo conto che i gay mi abbiano messo su un piedistallo, e questo mi piace. Dopotutto, di tutte le minoranze oppresse, loro sono senza dubbio i più oppressi. Hanno la grande difficoltà di trovare qualcosa o qualcuno con cui identificarsi, e alla fine hanno scelto me. Ho sempre amato essere circondato da persone gay, che hanno dimostrato di essere alcuni dei miei più cari amici e il mio pubblico più fedele. La sfilata del Gay Pride del 1988 viene aperta proprio da lui, da Sylvester, che ormai è debole, è su una sedia a rotelle. La sua presenza commuove tutti i presenti e anche tutti quelli che lo hanno sempre apprezzato. Sylvester muore. Muore il 16 dicembre 1988. Prima di morire aveva disposto che la maggior parte dei suoi beni e i diritti derivanti dai suoi successi andasse a favore delle fondazioni che si occupano di prevenzione e di cura dell'AIDS. In una intervista un mese prima di morire, le sue ultime parole: ho già disposto ogni cosa, perché so cosa sono stato, so cosa ho fatto, e ora voglio solo riposare, in pace con me stesso e con tutti quelli che mi sono stati vicino. Chiudete gli occhi con me, io voglio solo dormire. Voglio solo dormire. Nel giorno del suo funerale, per sue precise disposizioni, Sylvester indossa un kimono rosso, è truccato come ha sempre fatto sul palco, vuole lasciare un'immagine positiva pur nel dolore di una morte provocata da un male che ha cambiato lo stile di vita di molte persone in tutto il mondo. È il suo ultimo grande, sontuoso colpo d'ala. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social, insomma se mi cercate lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.